Libano, il paese sull'orlo del baratro. Praga, la ricina, forse dalla Russia, di sicuro con poco amore. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Yana jamao ammel yomi shtaganna nikol ma shtaganna ma nikol wa kif walla ghayr al ahwal bi ahsan. The mayor of Prague has said he is under police protection from a risk to my life, with one Czech investigative outlet reporting he had been targeted in a Russian poisoning plot. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questa è una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Temi diversi, quadranti diversi, la squadra è sempre la stessa: Antonio Tali, Lara Cesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi Luca Cremonese in assistenza e in console ritroviamo Filippo Oreggi. 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp per domande o commenti sui temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo che dalla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 potete trovare non soltanto la diretta video, casomai aveste un interesse per questo aspetto, ma soprattutto potete commentare. Io in diretta potrò rispondere alle vostre eventuali sollecitazioni. Stessa cosa farò via Twitter, gli account da tenere d'occhio: Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Due le notizie che vi sottoponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato, le proteste libanesi, di cui vi avevamo già dato conto nella puntata di ieri, non si sono fermate. Assalti alle banche durante la nottata sia a Tripoli, che quindi nel nord del paese, che Beirut, la capitale, ma anche nel sud, la valle della Bekaa, con assalti alle banche, lanci di Molotov. Un paese che già in preda al Covid-19, al default ormai conclamato, che cosa accadrà? Questa è la domanda che tutti si pongono. E poi una pagina tinta di giallo che ci arriva da Praga, il settimanale Respect tira fuori uno scoop che, se confermato, vedrebbe le mani lunghe di Mosca sulla politica di Praga. In particolare, pensate, addirittura un tentato assassino del sindaco di Praga. Su questo vi invito a commentare, 349-238-6666, ma intanto noi andiamo a sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta negli Stati Uniti. Anche Hillary Clinton scende in campo e appoggia pubblicamente la candidatura di Joe Biden per le primarie democratiche. Serve un leader, un presidente come Joe Biden. Sono stata non solo una collega, ha detto la Clinton, ma anche un'amica. Mi piacerebbe diventasse presidente. La Clinton nel suo discorso ha anche attaccato duramente l'amministrazione Trump per l'approccio rispetto alla crisi da coronavirus. E concludendo, il voto di novembre è il momento della resa dei conti, un referendum sul futuro che vogliamo. È evidente che si stanno innalzando anche i toni, novembre sembra distante ma in realtà non lo è tanto, ed è anche evidente che il fronte democratico sta tentando di capitalizzare e mettere a frutto gli ultimi scivoloni da parte, soprattutto, più che dell'amministrazione, soprattutto da parte del presidente Donald Trump. Intanto, sempre sul fronte democratico, Biden ha vinto le primarie in Ohio, erano state fissate per il 17 marzo e poi rimandate per l'emergenza coronavirus. Fin qua niente di nuovo, ma ci vuole sempre un effetto sorpresa in ogni lunga cavalcata elettorale che si rispetti. Proprio ieri sera, con un tweet a sorpresa, la frase, il claim, diciamo, principale di apertura era "Let's do this". Justin Amash, deputato indipendente ex repubblicano, ha annunciato la sua intenzione, badate bene, di correre per la Casa Bianca, sfidando sia Donald Trump che Joe Biden. È nato in una famiglia di arabi americani, antiabortista, 40 anni, è laureato in legge ed era entrato in politica con il Partito Repubblicano, salvo poi intraprendere una carriera da indipendente. Qualche analista già sottolinea, diciamo, l'inutilità di questa discesa in campo, un po' un guastafeste che finirà per probabilmente esaurire anche lo spazio mediatico nelle prossime settimane, ma naturalmente saremo qua per raccontarvelo. In Germania, intanto, non c'è al momento alcun indizio che lasci pensare a un movente xenofobo, politico o terroristico per gli attacchi che si sono verificati ieri sera ad Hanau. Lo ha affermato la polizia tedesca, sta indagando su una serie di accoltellamenti in cui 4 persone sono rimaste ferite nella città dell'Assia, già tristemente nota per un altro attacco che era avvenuto qualche settimana fa. Sono stati fermati 2 sospetti, 2 giovani siriani di 23 e 29 anni, e i 4 feriti sono 2 cittadini siriani, un iracheno e un albanese. Immediatamente le prime illazioni avevano portato appunto a dare una matrice xenofoba a quella che sarebbe stato un prosieguo di quel accoltellamento, ma così non è stato. In Polonia, perché il braccio di ferro tra l'Unione Europea e i paesi del blocco Visegrad pare continuare, Bruxelles ha lanciato una procedura di infrazione contro Varsavia. Al centro del provvedimento c'è la legge approvata, di cui vi abbiamo detto conto lungamente, approvata, dicevo, il 14 febbraio scorso, che apporta modifiche al funzionamento del sistema giudiziario col serio rischio di un controllo politico del sistema. Questo è il virgolettato che viene portato nero su bianco proprio nel provvedimento. Lo scorso dicembre migliaia di persone erano scese in piazza, lo ricorderete, in decine di città polacche, proprio per protestare contro questo provvedimento e contro l'ingerenza da parte del potere politico nel potere giudiziario. Gli stati membri possono riformare il loro sistema giudiziario, ma lo devono fare senza violare i trattati della UE, ha commentato la vicepresidente dell'esecutivo Vera Jourova, che ha invitato Varsavia a affrontare le preoccupazioni sullo stato di diritto che arrivano dalla Commissione dell'Unione Europea. Peraltro si avvicina il 10 maggio, ci sono le elezioni presidenziali in Polonia, governo intenzionato a mantenere la data nonostante la minaccia del coronavirus, naturalmente anche di questo importante appuntamento elettorale vi daremo conto. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, non soltanto il Libano ma anche un misterioso tentativo di assassinio. La notizia arriva da Praga, al centro di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, non prima di aver sfogliato i grandi dossier internazionali che, ricordo, sono notizie che hanno acceso la nostra curiosità, che sono il proseguo di approfondimenti delle scorse puntate o che diventeranno nuove puntate di Nessun Luogo è Lontano. Hashtag normalità, questo potrebbe essere l'appunto che potremmo scrivere a penna sull'ultimo dossier che ci porta in Cina. Pechino ha annunciato che il 22 maggio si terrà l'annuale incontro dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Allora, fin qua direte voi nulla di strano, ma sapete bene che nella liturgia e nella comunicazione del regime comunista di Pechino anche eventi come questo tipo lanciano segnali molto molto importanti. Sostanzialmente l'Assemblea Nazionale del Popolo è la versione del Parlamento del sistema cinese, si limita a ratificare le decisioni prese dal governo. Insieme alla conferenza consultiva si riunisce una volta l'anno in un appuntamento politico che è definito la doppia sessione. Le due sessioni, un summit nel quale migliaia di delegati arrivano a Pechino, erano previste per marzo, ma erano state rimandate a causa proprio dell'emergenza coronavirus. Diciamo che questi sono dei segnali, non soltanto politici, ma anche sociali, di vita quotidiana, che fanno intendere che la Cina si sta avviando proprio a una nuova normalità. Allora, c'è un ascoltatore che sottolinea che traspariva dalle mie parole un certo disappunto, a suo parere, nel constatare che stavolta non è possibile indignarsi per la xenofobia tedesca. E qua non capisco francamente l'illazione. Avrei potuto in maniera molto astuta, per esempio, tralasciare la notizia se proprio fosse così, ma assolutamente da parte mia non vi era quell'intenzione, voglio rassicurarla in questo. Qualcuno già inizia a portare le sue opinioni, i suoi commenti su quella che è la gravissima crisi libanese, qualcun altro, un ascoltatore che ci messaggia da New York, Clinton, non so se si sia ricordata così bene, starei attento, e poi cita un po' di sondaggi. Detto ciò, come annunciato, vi porto in Libano, in particolare Tripoli, importante città del nord, una città attanagliata da un tasso di disoccupazione ormai, pensate, che è del 60%, una storia recente piuttosto violenta. Proviamo a camminare tra quelle strade. We'll be right back. Vi ho portato tra le strade di Tripoli, ma anche di quelle di Beirut, i suoni che avremmo potuto dire sono proprio quelli di assalti alle banche, di scontri con le forze dell'ordine, di lanci di Molotov. Da diversi giorni sono riprese le proteste contro la corruzione, il carovita, il sistema bancario. Come vi dicevo in apertura, proteste a Tripoli, importante città del nord, la capitale Beirut, ma anche a sud, la valle della Bekaa, quel territorio peraltro bellissimo, ma in cui la presenza di Hezbollah è particolarmente importante e tanto preoccupa Israele. I dimostranti, i cui suoni, voci e urla avete sentito, in larga parte giovani armati di bastoni e pietre, hanno preso assalto di diverse sedi di istituti bancari, addirittura tentando l'assalto alla sede della banca centrale a Beirut. Sono giovani, come vi ricordavo, che soffrono di numeri e di statistiche impietose, 60% di disoccupazione generale, quindi pensate quella giovanile in città come Tripoli. Su Twitter, viaggiando sui social, anche senza masticare adeguatamente l'arabo, si trovano svariati video, svariate immagini girate dagli stessi manifestanti che testimoniano la rabbia che viene scatenata contro l'establishment libanese, incapace fino adesso di risollevare il paese. L'aspetto economico è particolarmente importante. Secondo le stime della Banca Mondiale, precedenti però all'emergenza coronavirus, la quota di popolazione libanese in condizioni di povertà nel 2020 si attestava al 45%. Secondo altre stime, citate dalla CNN, oggi il dato è più elevato, il 75% della popolazione libanese si troverebbe in condizioni di povertà. Senza scendere nello specifico di quelle che sono dinamiche, in alcuni casi anche strettamente finanziarie, l'economia libanese è molto legata al dollaro americano, che viene normalmente utilizzato per tutte le transazioni quotidiane, e negli ultimi mesi le riserve della banca centrale si erano ridotte in maniera preoccupante, col risultato che è stato molto difficile attuare le consuete importazioni dall'estero anche di beni essenziali. Il Libano non è un grande paese produttore, avrebbe potuto dotarsi di grandi servizi finanziari, in parte lo ha fatto, ma questo tracollo economico evidentemente non ha giovato a quella acerba economia finanziaria. Poi recessione economica, iperinflazione hanno causato il crollo del potere d'acquisto da parte dei libanesi. Lo scorso 11 marzo il governo aveva detto che non avrebbe pagato l'eurobond da 1,2 miliardi di dollari in scadenza, e sostanzialmente si è conclamata quello che è il default finanziario di questo piccolo e importantissimo paese del vicino Oriente. (349) 238 6666, c'è qualche ascoltatore che forse in mia vece stigmatizza quella che è l'aggressività, diciamo, di alcuni commenti degli ascoltatori, e ringrazio per queste prese di posizione, ma ripeto, al di là dei contenuti trovo che la sobrietà e il rigore anche nel messaggio sia fondamentale e diventi esso stesso contenuto. Detto ciò, vi faccio sentire, prima di introdurre la prima ospite, la voce di Stephanie Dyer. È una ricercatrice che lavora da parecchio sul Medio Oriente, dottorato di ricerca con la scuola Sant'Anna, libanese da anni in Italia. La sua testimonianza è importante perché fa parte di quelle tante libanesi e tanti libanesi che hanno abbandonato il paese dei cedri e che vivono con grande apprensione quello che sta accadendo in queste settimane. Sentite. Come cittadina libanese che vive all'estero, posso dire che queste dimostrazioni potevano essere previste, e anche in termini di intensità, come sta accadendo ora. Dopo circa 3 anni di crisi economica che ha lasciato migliaia di neolaureati disoccupati e il costante aumento di cittadini che vivono in condizioni di povertà, i libanesi purtroppo non hanno più niente da perdere. Questa volta il movimento è in netto contrasto con quelli precedenti. Il movimento è fortemente decentrato. Diverse città libanesi hanno assistito da ottobre e soprattutto in questi ultimi giorni a delle massicce proteste, come a Tripoli, Sur, Saida e Nabatieh, precedentemente percepite come zone controllate dai leader settari. Questo particolare punto è cruciale perché mancava sostanzialmente durante il movimento del 2015, e secondo me la resilienza e la resistenza del movimento dipende fortemente da queste città. Quindi possiamo dire che la natura cross-settaria del movimento è una novità nei movimenti di proteste post-guerra civile in Libano. E questa volta i giovani libanesi stanno giocando un ruolo centrale in queste proteste, assegnando ai leader settari la piena responsabilità di anni di corruzione, frode elettorale e deterioramento economico. Sono sicura che questa volta il Libano non tornerà più al punto zero come prima dell'ottobre 2019. Quello che è stato istituito dal 17 ottobre di proteste con tanta consapevolezza politica e sociale, senso di appartenenza a un paese intero e non un setto religioso, hanno insegnato ai libanesi preziose lezioni di resistenza e hanno dato loro la speranza che è andata perduta per tanti anni. Questa è la voce, l'analisi, il commento che arriva da quella che è la corposa diaspora libanese, che come vi dicevo segue con apprensione quello che sta accadendo. La voce era di Stephanie Dyer, ricercatrice, esce dalla scuola Sant'Anna di Pisa ed è esperta di Medio Oriente. Buongiorno e benvenuta a Nessuno che lontano, ben ritrovata. Rolla Scolari, giornalista freelance, anch'ella esperta di Medio Oriente. Rolla, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Quanto sei ferrata in heavy metal medio orientale? Non so se hai riconosciuto le note delle Slave to the Sirens. Non sono molto ferrata in heavy metal medio Perché, sai, orientale. Rolla, abbiamo preso questa piega molto, molto cattiva. Ultimamente esploriamo tutte le band metal possibili. Nessun luogo lontano si tradurrà in nessun metal lontano. Abbiamo scoperto che parte del nostro pubblico apprezza queste pennellate piuttosto dure. Poi in tempi così, e qua usciamo dallo scherzo, in tempi così duri per il Libano, forse la colonna sonora giusta, almeno per quelle migliaia di manifestanti che sono scesi a protestare. Rolla Scolari, la potete leggere su Avvenire, sulla stampa, sull'inchiesta, fra le altre cose, molto spesso è anche voce ai nostri microfoni. Rolla, tu qualche mese fa, qualche settimana, mese fa, eri in Libano. Una prima domanda: com'è cambiato il movimento di protesta in queste ultime settimane? Secondo te, se è cambiato? È cambiato certamente, è cambiato perché quello che abbiamo visto nelle ultime ore è un movimento più violento. Abbiamo visto degli scontri con l'esercito a Tripoli e in altre città del Libano, le stesse che sono state toccate dalle manifestazioni dei mesi scorsi e di ottobre, ma c'è sicuramente più frustrazione da parte della gente che sta scendendo in queste ore in strada. Quello che sta succedendo, il meccanismo che fa scendere in strada le persone è sempre lo stesso. Ricordiamoci che le manifestazioni e le proteste di ottobre sono state innescate dalla crisi economica. La crisi economica di cui si parla in queste ore in Libano esisteva già ed era molto profonda prima della crisi sanitaria e la diffusione del Sì, coronavirus. Il sì. coronavirus ha peggiorato semplicemente la situazione, l'economia è completamente ferma, la lira che stava già cadendo e crollando ormai è scesa del 50%. Tu hai parlato prima del potere di acquisto della popolazione, è crollato, sono crollati i salari e soprattutto molte persone che hanno in Libano o dei lavori legati al turismo o dei lavori anche proprio, sono lavoratori quotidiani nei mercati, ora non stanno portando a casa soldi, per cui in uno stato che manca completamente di un welfare state, Sì, di sostanzialmente, stato sociale, è evidente stato che. sociale quello che sta avvenendo, si poteva assolutamente prevedere. Sì. Ecco, questa è una delle mancanze più grosse da parte del governo. Sì. Quello che è successo nelle scorse settimane è stato che tutti i partiti settari hanno cercato un po' di riprendere i punti persi ad ottobre, con delle dimostrazioni, hanno donato soldi, vari leader settari, agli ospedali, si sono fatti vedere molto attivi nella donazione di macchinari per la ventilazione, di mascherine, di tute protettive, tutte cose che però non hanno impressionato più di tanto la popolazione perché quello che la popolazione richiede da tempo sono delle riforme economiche e sociali che sanno che non stanno arrivando, nonostante il cambio di governo dopo la rivoluzione. La fotografia che ci restituisce Rolla Scolari, giornalista freelance, esperta di Medio Oriente, che ben conosce il Libano, fresca per così dire, al di là della parentesi Covid-19, proprio di una lunga trasferta libanese, è francamente sconfortante. Un'economia in ginocchio, fatta soprattutto di economia informale, come ci raccontava. Bisogna uscire di casa per portarsi a casa la pagnotta, non c'è nessun reddito di cittadinanza, non c'è nessun meccanismo che possa in qualche modo lenire quello che è una sorta di lockdown, soprattutto economico. Lockdown invece sociale e sanitario, sfidato dai manifestanti. In queste ultime ore l'assalto alle banche, tra poco capiremo perché. Rolla Scolari, ci sono un po' di domande dagli ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666. C'è un'osservazione che trovo interessante, che previene sostanzialmente, anticipa quella che era una delle mie domande. L'Iran tramite Hezbollah cercherà di mettere le mani sul paese, prevedo scintille con Israele. Prima Rolla faceva riferimento all'attivismo di certi partiti e formazioni settarie. Quanto Hezbollah potrebbe trarre beneficio dal caos che adesso c'è nel paese? Quando ho parlato dei partiti che nelle scorse settimane si sono mostrati attivi nella lotta al coronavirus, il primo fra tutti è stato Hezbollah. Hezbollah ha sempre avuto come metodo di diffusione sul territorio proprio la costruzione di uno Stato in un certo senso parallelo, cioè va a infilarsi dove manca lo Stato libanese è molto debole, allora Hezbollah come movimento garantisce dei servizi ai cittadini che possono essere anche quelli legati alla sanità. Certo. Quindi questo lo sta sicuramente facendo. C'è da dire che ormai da diverso tempo, da ottobre, quando milioni di persone attraverso il paese sono scese in piazza, anche Hezbollah è sicuramente in una posizione indebolita, perché la popolazione ha capito che i politici in questo momento non stanno più cercando di trovare soluzioni, non lo hanno probabilmente mai fatto in alcuni casi, e soprattutto hanno capito che quelle riforme che loro chiedono non stanno arrivando, per cui è difficile in questo momento mettere a frutto questa situazione di caos, dici tu, perché Hezbollah cerca di essere la cura, ma in parte è stato anche il problema di questo strano sistema di corruttela, settarismo, no, che dura ormai da decenni. Il fatto che nelle ultime ore anche a Nabati e anche Nesut, che sono le roccaforti di Hezbollah, siano tornati in strada, dimostra proprio questo, che comunque è visto come una parte del sistema contro cui la gente sta manifestando. E certo, hai fatto benissimo a sottolinearlo, la Valle della Bekaa è in qualche modo il feudo, quello più garantito di Hezbollah. La voce che avete sentito, l'analisi, arriva da Rolla Scolari, giornalista freelance, che ringrazio e le do appuntamento alla prossima. Grazie mille Rolla, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, al di là di un certo compiacimento per sonorità forti che in qualche modo in questo racconto di Nessun Luogo Lontano vogliono accompagnare quella che è la tensione che sta vivendo in Libano, c'è una notizia dietro alle Slave to the Sirens, perché è l'unica band medio orientale heavy metal totalmente al femminile, e questa insomma di per sé è una menzione degna di nota a nostro parere. Non è un caso peraltro che arrivino proprio dal Libano, un paese che ha fatto anche della commistione e della pacifica convivenza per tanti anni, anche di credo religiosi diversi, non è un caso. Qualcuno, senza affatto edulcorare il linguaggio, quindi cercherò di ripulirlo, ma vi prego di non sottopormi a questo sforzo lessicale. Libano, i guai di una nazione multietnica, multireligiosa, multiculturale, cosa che ci mettiamo un bel bip, vogliono avvenga in Italia, così un ascoltatore che tenta di tracciare un parallelo tra quella che è la realtà libanese e quello che a suo parere sarebbe il futuro nelle proiezioni di qualche bip, appunto. 349-238-6666. Saverio ci ricorda che la chiamavano il Libano, lo chiamavano la Svizzera del Medio Oriente. Qualcun altro, un ascoltatore che ci scrive: lavoro in Libano, la situazione è drammatica, ma proviene da molto prima del Covid-19. È verissimo. Allora, da cosa può ripartire il Libano? L'ultima osservazione che arriva da un ascoltatore: con la Siria in ginocchio ci sarà meno domanda di merci e servizi. Il ruolo di fulcro economico del mondo arabo è passato a Dubai, e i padrini delle fazioni dell'Iran in giù sono a loro volta in bolletta. Così un altro commento di un ascoltatore. Io direi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le borse e poi continuiamo a ragionare su quella che è la nefasta situazione del Libano sull'orlo del baratro. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa apertura di Nessun Luogo Lontano stiamo lungamente trattando quella che è una crisi storica per il Libano, attanagliata non soltanto dall'emergenza Covid-19, una crisi finanziaria che ormai ha messo in ginocchio il paese, le proteste che ormai non guardano più in faccia nemmeno quello che erano i feudi intoccabili di Hezbollah. Anche nel sud, la Valle della Bekaa, si protesta, ma anche a nord, a Tripoli, un'economia al collasso. Un'ascoltatrice: quali sono le principali risorse economiche del paese, i sussidi delle Nazioni Unite? Beh, non soltanto sono arrivati tanti aiuti, l'economia soprattutto legata alle banche per anni ha reso il Libano appunto la Svizzera del Medio Oriente. C'è una florida agricoltura ma con respiro assolutamente locale, c'è un po' di turismo ma anche lì una devastante gestione di quelle che potrebbero essere risorse incredibili, sia archeologiche, che naturalistiche, hanno portato a un turismo francamente che si conta col contagocce. Appunto le ultime proteste non hanno fatto altro che acuire questo aspetto, questa caduta del turismo, nonché il flusso di profughi siriani. Le banche, quello è forse il capitolo principale. Sentite la voce di Asil Tabarra, ex giornalista di France Press, caporedattore del quotidiano libanese in lingua francese L'Orient Le Jour, perché durante questa nuova ondata di proteste sono state prese di mira proprio loro, le banche. Sentite. Depuis le début du soulèvement, les banques représentent tout ce que les gens contestent. Fin dall'inizio delle manifestazioni, le banche rappresentano tutto quello che la gente contesta. Sono totalmente legate alla classe politica e i politici libanesi hanno grandi interessi dentro le banche. Le banche hanno stretto degli accordi con la banca centrale, con i politici, e sono stati messi in piedi stratagemmi contabili per permettere al paese di continuare a funzionare. E le banche si sono arricchite a livelli inimmaginabili nel corso degli ultimi anni. Molto prima che iniziassero le proteste dello scorso anno, le banche avevano iniziato a imporre delle limitazioni, come era successo in altri paesi, come ad esempio in Argentina. La gente ha scoperto che i propri risparmi bancari erano stati bloccati e non potevano più accedervi. Le persone contestano questa situazione e le banche rappresentano quello contro cui lottano. In precedenza le manifestazioni erano pacifiche. C'erano manifestanti che entravano nelle banche cantando canzoni satiriche e organizzavano sit-in davanti agli istituti di credito. Ma la frustrazione della popolazione, forse anche degli elementi che manipolano i manifestanti, hanno portato agli attacchi alle banche. Per esempio, questa notte in diverse città del Libano molti bancomat sono stati distrutti perché rappresentano un simbolo molto forte per i libanesi. I loro soldi sono bloccati nelle banche, non possono prelevarli. C'erano persone che dovevano passare ore e ore in coda in banca per provare a ritirare $100 dal proprio conto corrente. Oggi non ci sono più dollari disponibili e la gente è costretta a ritirare i propri risparmi in lire libanesi. In questo modo perdono molti soldi al cambio perché l'economia è legata al dollaro. Avec ça, parce que l'économie était totalement dollarisée, donc les gens n'avaient pas besoin de faire des comptes en livres libanais. Questa è la voce di una collega che lavora a L'Orient Le Jour. 349-238-6666, un ascoltatore che evidentemente vuole stigmatizzare e rispondere a precedente ascoltatore che a sua volta demonizzava la compresenza di diverse etnie e diverse religioni nello stesso luogo, e si fa una domanda: nel mondo quante sono le nazioni con un'unica etnia e quante invece sono multietniche, comunque con grandi minoranze o comunità? Per trovare nazioni senza minoranze bisogna andare nel Far East, Estremo Oriente, Cina, Giappone, Corea, Vietnam e Mongolia. Così un ascoltatore che risponde appunto al precedente ascoltatore. Qualcun altro: è possibile che in Medio Oriente, se non hanno un dittatore, non vanno avanti? E altri che conoscono molto bene Beirut. Qualcuno evoca lo skyline di Beirut con grattacieli imponenti. Come si spiega questa situazione così drammatica? La storia stessa libanese, come immagino sappiate o ricordiate, è proprio funestata da eventi di questo tipo. Certo, questa crisi sta mettendo alla berlina anche quello che era uno dei capisaldi, dei baluardi del cosiddetto parastato libanese, cioè Hezbollah, che è un partito politico, che ha una sua milizia armata, che è legata a filo doppio con Teheran, che tanti grattacapo, per usare un eufemismo, a Israele. Ed è la prima volta da tanto tanto tempo che in qualche modo si va a contestare anche Hezbollah. Sperava, pensava di essere la cura, regalando ventilatori, distribuendo mascherine, facendo il parastato sociale come ha sempre fatto. Ecco, a questo punto i libanesi forse hanno avuto un moto di ribellione rispetto anche a un modus operandi evidentemente fin troppo cristallizzato. Apriamo per un attimo la parentesi di quella che è l'impatto del coronavirus che si è avuto nel paese. Vi faccio sentire ancora la voce di Asil Tabarra. Lo ricordo, lavorava a France Press, una delle più prestigiose agenzie di stampa del mondo, e poi è diventata caporedattore del quotidiano libanese in lingua francese L'Orient Le Jour. L'impatto del Covid sull'economia libanese, sentite. L'impact du coronavirus sur la situation sociale et économique au Liban a été catastrophique. L'impatto del coronavirus sulla situazione sociale ed economica del Libano è stato catastrofico. Eravamo già in piena crisi economica. Poi c'è stata la chiusura prolungata di circa un mese e mezzo e la lira libanese ha continuato la sua caduta libera. Oggi per comprare un dollaro servono 4.000 lire libanesi. Sei mesi fa ne bastavano 1.500 e questo è insostenibile. Le persone hanno iniziato in questi giorni a riaprire le proprie attività e si sono resi conto che sono completamente rovinati. Non hanno più contanti, non possono prelevare i soldi dalle banche, nessuno più accetta di vendere o comprare in lire libanesi. Perché la moneta è in caduta e nessuno ha più dollari. Quindi ci stiamo dirigendo verso una catastrofe totale sul piano economico e solo ora la gente inizia a rendersene conto, perché siamo stati in lockdown per un mese e mezzo. Intanto grazie al velocissimo lavoro della redazione che mi sta dando una mano a rispondere anche all'ultima sollecitazione che riguardava l'assenza di minoranze etniche in Cina. Antonio Talia, immagino, mi fa notare che la Cina conta 56 minoranze etniche, giusto per precisare, quello che, dove anche apparentemente c'è monolitismo etnico in questo mondo globalizzato è veramente molto molto difficile. Quello che è certo ed è appurato è che il Libano, ma così come anche la Siria, per decenni sono stati formidabili laboratori di convivenza, così come i territori palestinesi, Israele insieme. Recentemente, parlo degli ultimi decenni, vi sono stati delle esplosioni di violenza e di tensione che la politica, qua non spero di non passare per facilone populista, la politica non è certamente riuscita a risolvere. È vero che il Medio Oriente è importante, è vero che si scontrano grandi potenze, è vero che gli appetiti di tanti attori regionali si concentrano anche per interposta persona o, se volete, milizie proprio in quei quadranti. 349-238-6666, cosa sta facendo il governo libanese, appunto? Sentiamo ancora la Tabarra. Le gouvernement en qui très peu de gens ont confiance. Nel governo ci sono poche persone di cui i libanesi si fidano, perché è completamente controllato da Hezbollah e la corrente patriottica libera. Il governo sta cercando di elaborare un piano di risanamento finanziario che presenterà alla comunità internazionale. Ma a causa dei problemi politici, della corruzione e anche dell'incompetenza, fino a ora non è riuscito a presentare questo programma. Personalmente, credo che l'unica scelta per il Libano sia quella di chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale. Ma per farlo serve che tutti i partiti politici siano d'accordo, e questo non è ancora un dato di fatto, soprattutto l'accordo di Hezbollah. Inoltre, fino ad ora, il governo non ha veramente adottato delle misure per gestire la situazione economica. Si è riunito oggi e lo farà ancora domani per mettere a punto un piano economico. Al tempo stesso, aveva previsto una sforbiciata sui grandi depositi, ma senza annunciarla. Ha dovuto ridimensionare il progetto per il contraccolpo che ha avuto nel paese. La gente non capisce perché si vadano a toccare i loro soldi. Per questo credo che non ci siano altri modi per gestire la crisi crisi finanziaria se non chiedere l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale. Non c'è molto di moyens di remédier alla situazione, je crois, a part d'avoir recours au FMI. Così Tabarra, caporedattrice de L'Orient Le Jour, giornalista libanese, segue da vicino ormai da decenni quella che è la situazione così complessa e anche difficile da restituire a voi ascoltatori, e spero che ci stiamo riuscendo. È una fotografia che ha tanti colori ed è difficile avere approcci manichei, bianco o nero, soprattutto in un paese così, lo ripeto, complesso. Molti di voi stanno aggiungendo, credo virtuosamente, analisi e complessità appunto alla nostra fotografia. È solo una coincidenza, scrive un ascoltatore, che la protesta sia diventata violenta ora che Soleimani è morto e la debolezza iraniana si riflette sull'autorevolezza di Hezbollah. Prima non si muoveva una foglia senza che Nasrallah lo volesse. Nasrallah, per gli ascoltatori, è il leader di Hezbollah, un leader che parla improvvisamente ai suoi, lo fa da bunker nascosti, nessuno sa mai dove sia, insomma uno dei più ricercati, soprattutto dagli israeliani, che vi siano sulla faccia della terra. Ma in realtà le proteste sono iniziate da ottobre che se ne parla, dopo la morte di Soleimani, però la protesta è diventata molto molto violenta negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e come ci spiegavano i nostri ospiti, il lockdown economico ha causato una contrazione dei consumi, della possibilità di andare semplicemente a sfamare i propri figli, che evidentemente sta esacerbando gli animi. In più tenete conto che anche meccanismi di parastato come quelli di Hezbollah sembrano avere le armi spuntate, perché i libanesi dicono adesso basta, voi siete parte del problema. È evidente che la violenza stia spadroneggiando. Ma che cosa sta facendo l'opposizione? Potrebbe parlare, sentite l'ultimo contributo che ci ha regalato Tabarra per capire il ruolo dell'opposizione, ascoltate. Je ne peux pas parler vraiment d'opposition politique. Non si può parlare di un'opposizione politica unita. Ci sono dei partiti che hanno iniziato ad avvicinarsi per fronteggiare il governo. Si tratta del movimento Il Futuro di Saad Hariri, le forze libanesi di Samir Jaja e il Partito Socialista Progressista di Walid Jumblatt. Hanno lanciato un appello a serrare i ranghi per fare fronte al governo, ma questi movimenti fanno parte della classe politica che i manifestanti denunciano, in cui non hanno nessuna fiducia. Se anche l'opposizione andasse al governo, la situazione non migliorerebbe, ed è per questo che la situazione è difficile. Abbiamo un movimento di contestazione popolare che rappresenta la maggior parte dei libanesi, ma che non ha una leadership, che non è organizzato e che sta scivolando sempre più verso la violenza, per affermare che rifiuta tutte le politiche del governo. Ma al tempo stesso non c'è un'opposizione credibile che possa presentare un'alternativa. In cui on a confiance qui pourrait présenter un plan alternatif. Questa è la voce di Asil Tabarra, L'Orient Le Jour, caporedattore del servizio locale del quotidiano libanese in lingua francese. La mia redazione mi fa notare che ho fatto una gaffe, perché ho detto prima invece di dopo. Soleimani è morto a gennaio, le proteste sono iniziate a ottobre, quindi evidentemente ho invertito gli avverbi. Allora, 349-238-6666, tenete i polpastrelli caldi, perché tra pochissimo, dopo il traffico, vi raccontiamo un mistero in salsa, forse russa. Nessun luogo è lontano. You're telling me you made this in the lab? Why not? Making it in his own lab seemed appropriate. There's not much of it. We had more for Tuco. It's enough. This is still the best way. With this, you slip it into his food or drink. There shouldn't be any taste or smell. 36 hours later. È stata acclamata come una delle serie TV meglio riuscite della recente storia del piccolo / grande schermo. Era Breaking Bad. A un certo punto il protagonista Walter White usa la ricina e descrive, nel passaggio che avete sentito, la sostanza letale può essere messa nelle bevande, nel cibo, è incolore, inodore, in sapore. Ricinai, molti dirà poco, a meno che appunto qualcuno di voi non sia super fan di quella serie TV. La cronaca più recente invece ci consegna assassini mirati, come quando la ricina è stata utilizzata per uccidere il disertore bulgaro Gheorghi Markov. Era il 1978, a Londra lo raggiunse il KGB e gli iniettò sostanzialmente una sorta di piccolo proiettile velenoso con un ombrello. È molto velenosa, se iniettato o inalata, morte sicura in poche ore, senza praticamente lasciare traccia. Persino negli archivi di Saddam Hussein in Iraq, al posto delle armi di distruzione di massa, si trovarono appunti su come gestire questo potentissimo veleno. Anche alcune cellule terroristiche legate al Qaeda non nascondevano l'interesse per la ricina. E poi nel 2013 ricorderete quell'invio di lettera all'allora presidente Barack Obama proprio con la ricina. Allora, la storia di oggi è un po' complicata, segnatevi questo primo nome, ricina, poi aggiungete Praga, Repubblica Ceca, e un obiettivo, Zdeněk Hřibos. Questi tre elementi di questa storia, bisogna andare a Praga. E la storia inizia più o meno così. Tra la prima e la seconda settimana di aprile, un uomo di nazionalità russa atterra al Václav Havel, l'aeroporto di Praga. Probabilmente l'uomo non apprezza che l'aeroporto sia dedicato proprio all'ex dissidente ed ex presidente della Repubblica Ceca, che ha contribuito a portare la democrazia nel paese. Il personaggio appena atterrato, infatti, viaggia con un passaporto diplomatico russo e Mosca ha spesso un rapporto molto teso con i suoi ex stati satellite, come la Repubblica Ceca. Il nostro uomo evidentemente non passa dai controlli di sicurezza ordinari, perché viaggia con una valigetta diplomatica e all'uscita dell'aeroporto viene preso in consegna da un'auto inviata dall'ambasciata russa a Praga. Questo personaggio, che passerà dall'ambasciata russa e poi sparirà nelle strette strade di Praga, ignora di essere sorvegliato dai servizi segreti cechi. Secondo l'intelligence di Praga è un agente russo, un sicario con una lista di tre nomi da colpire. Il sindaco di Praga, Zdeněk Hřibos, il sindaco della municipalità 6 di Praga, Andrej Kolaš, e il precedente sindaco di Praga, Pavel Notovny. Il periodico Respekt, giornale d'inchiesta ceco, svela quello che sta succedendo in una serie di articoli firmati da Andrej Kundera. I tre personaggi nella lista del sicario rivelano di essere stati messi sotto scorta dai servizi cechi. Sentite dalla viva voce di Andrej Kundera, caporedattore del settimanale Respekt, quali sono le ragioni per cui vi sarebbe un tentativo di omicidio da parte dei russi verso questi uomini politici praghesi. Sentite. There are several reasons for this. Ci sono diverse ragioni. Se parliamo di Andrej Kolaš, che è il sindaco del sesto distretto di Praga, che è sotto scorta dal 10 di aprile scorso, Kolaš era uno dei principali politici che, insieme ad altri amministratori locali, hanno adottato la decisione di rimuovere la statua del maresciallo Konev, il generale sovietico che durante la Seconda Guerra Mondiale aiutò nella lotta contro i nazisti. Andrej Kolaš e altri politici della municipalità hanno deciso di rimuovere la statua a causa delle forti critiche dei cittadini di Praga. Per molti, il maresciallo Konev non era solo l'eroe di guerra, ma anche un personaggio che ha versato sangue innocente. Avrebbe rimandato indietro in Unione Sovietica molte persone che cercavano di sfuggire a Stalin, e queste persone sono poi state uccise. Inoltre, nel 1956, sempre il maresciallo Konev è stato responsabile del bagno di sangue durante il movimento di opposizione in Ungheria. Quindi, a causa di queste ragioni, moltissime persone nella municipalità 6 di Praga desideravano rimuovere questa statua, eretta negli anni Ottanta durante l'era comunista. Andrej Kolaš era d'accordo e ha adottato la decisione di rimuovere la statua, quindi questo avrebbe causato un'enorme rabbia al Cremlino, perché molti dei funzionari russi nell'entourage di Putin avrebbero ritenuto che l'eliminazione della scultura, in qualche modo, avrebbe delegittimato e distrutto la versione ufficiale della Russia e dell'Unione Sovietica come vincitori della Seconda Guerra Mondiale ed esportatori di buone politiche nel blocco orientale. Per quanto riguarda il sindaco di Praga, Zdeněk Hřibos, lui è responsabile di aver rinominato la piazza di fronte all'ambasciata russa a Praga. La piazza è stata intitolata a Boris Nemtsov, il leader dell'opposizione ucciso in Russia. Inoltre, sempre il sindaco Hřibos aveva intitolato un'altra strada ad Anna Politkovskaya, la giornalista assassinata sempre durante il governo di Putin. Infine, il sindaco precedente, Pavel Novotny, anche lui aveva adottato decisioni del genere che potrebbero aver fatto infuriare il Cremlino. Queste potrebbero essere le ragioni di forti pressioni contro questi politici e i motivi per i quali un uomo russo, con forti legami con una delle agenzie dei servizi segreti russi, è stato inviato a Praga. La polizia ceca aveva delle informazioni concrete sul fatto che questa persona rappresentava un forte pericolo per i politici menzionati, ed ecco perché ha deciso di affidarli a una scorta. La voce di Andrei Kundera, che è riuscito con un lungo lavoro a almeno scalfire la superficie di una coltre di nebbia che avvolgeva una storia che altrimenti non sarebbe mai emersa. Certo, se confermata, sarebbe fonte di grave imbarazzo per Mosca, ma in tante puntate di Nessun Luogo Lontano abbiamo raccontato a volte la disinvoltura con cui agenti russi si sono mossi in Europa. In proposito, c'è una domanda interessante di un ascoltatore che su Facebook ci chiede: se fosse confermato il tentativo di assassinare un sindaco di una città europea, sarebbe da considerare un attacco a uno Stato europeo, a un alleato della NATO? Allora, l'intervento della NATO si attiva con l'articolo 5 del trattato. Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale costituirà un attacco verso tutte. Il tentativo di omicidio, d'altra parte, magari potrebbe essere sottoposto a sanzioni perché non è esattamente un attacco alla nazione, però certamente è motivo di preoccupazione se e quando Andrei Kundera riuscirà a scavare ancora di più in questo suo lungo lavoro. Le ragioni che ha appena spiegato sono davvero sufficienti o ci sono altri interessi della Russia in Repubblica Ceca? Sentite ancora il giornalista. We still don't have enough information on this, so it's hard to judge and answer completely your question. Non abbiamo ancora abbastanza informazioni, quindi è difficile rispondere a questa domanda e avere un quadro completo della situazione. Ma i fatti sono questi. All'inizio di aprile, l'uomo russo al centro del caso è atterrato a Praga. Viaggiava con un passaporto diplomatico, quindi munito di immunità, ed è stato prelevato all'aeroporto da un'auto dell'ambasciata russa, dove è stato trasportato. Sappiamo che tra i suoi bagagli c'era una valigia e la polizia ceca ha ottenuto alcune informazioni concrete che indicano che questo personaggio è molto pericoloso per l'incolumità dei tre politici praghesi che ho menzionato prima. Secondo l'intelligence ceca, si tratta di una vera minaccia per loro. Quindi la polizia ha subito contattato i presunti bersagli e ha approntato un dispositivo di sorveglianza. Il sindaco della Municipalità 6 di Praga, Andrei Kolas, per esempio, è sotto scorta dal 10 aprile. I suoi movimenti vengono seguiti da agenti di polizia. Non può vivere nella stessa casa con la sua famiglia e sta abitando in un luogo segreto e sorvegliato. Quali altre informazioni concrete siano in possesso della polizia ceca è impossibile da stabilire. Non lo sappiamo ancora. Siamo quasi in chiusura, non riesco a farvi sentire il proseguo della lunga intervista che ha realizzato Antonio Talia al collega di Respect, però posso anticiparvi che a un certo punto in un passaggio uno dei tre uomini, dei tre politici, in particolare Andrei Kolas, ha diffuso una dichiarazione attraverso uno dei canali più seguiti in Repubblica Ceca in cui diceva di non poter rivelare dettagli, fonte l'intelligence ceca evidentemente, ma ha confermato di essere sotto scorta perché un individuo di nazionalità russa che si trova nella Repubblica Ceca aveva un piano per uccidere lui e altri due politici. Così in qualche modo, tramite la testimonianza di Kundera, andiamo a rispondere a un ascoltatore che mi dice: sbaglio, siamo alla demonizzazione preventiva, individuando nel nostro racconto evidentemente un attacco a Mosca e alla sua politica in Repubblica Ceca. Filippo Reggi mi fa segnale e mi dà un ordine. Al quale obbedisco ovviamente, ringraziando tutti voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Buona giornata da Gianpaolo Musumeci.